2024 2024 di Enrico Pagliarini. Puntata del 18 febbraio 2012, come forse avete già capito dall'audio di sottofondo, non siamo nel nostro studio classico, ma oggi 2024 va in onda dalla BIT, Borsa Internazionale del Turismo. Sono le 15:33 minuti. Ringrazio subito i nostri tecnici, oggi con noi Pietro Lacorte nel nostro studio esterno qui alla Fiera di Milano e Roberto Scaltritti nel nostro studio in via Monte Rosa, sempre a Milano. Benvenuti, bentornati, questo è il programma di tecnologia di Radio 24. Oggi parliamo di tecnologia e di turismo. Molte cose sono capitate, sono successe nel corso degli ultimi anni, molte cose che voi fate tutti i giorni hanno a che fare anche con il turismo. Pensate ad esempio all'acquisto di biglietti. Buona parte del commercio elettronico è fatta proprio da questo settore, l'acquisto dei biglietti per viaggiare. Saluto il primo ospite di oggi, Sam Minelli di Alinari 24 Ore, benvenuto, grazie per essere con noi. Ciao Sam. Grazie a voi. Dunque, noi nella prima parte vogliamo parlare di realtà aumentata, parlando anche di un progetto al quale tu hai partecipato, un progetto che è nato in Toscana, a Firenze, poi ne parleremo, si chiama Visito Tuscany. Però visto che ho citato una cosa che forse non tutti conoscono, ho detto realtà aumentata, che cos'è? La realtà aumentata è tutto quello che viene messo a disposizione di un utente che visita in una città e in una modalità diversa dal passato. Io non mi porto più un catalogo cartaceo dietro, non mi porto una guida turistica cartacea, ma sono lì e vorrei che il mondo mi parlasse attorno a me, e tutto quello che tecnologicamente permette questo viene detto realtà aumentata. Realtà aumentata. Spesso la realtà aumentata transita attraverso gli smartphone. Esattamente, ed è, uno degli strumenti su cui la realtà aumentata fa perno. Esatto, facciamo un esempio. Io sono in piazza Duomo a Milano, guardando il Duomo, buona parte delle persone sanno che quello è il Duomo di Milano, però la realtà aumentata è una cosa che funziona, come dicevamo, con lo smartphone. Immaginiamo di inquadrare con la videocamera dello smartphone il Duomo di Milano. Sul display dello smartphone appaiono altre informazioni. Sì. Lo smartphone adesso, oggigiorno, è come un pezzo di vetro trasparente su cui si vede quello che è oltre questo pezzo di vetro trasparente, e su questo dispositivo vengono proiettate altre informazioni. Sì, io ho fatto l'esempio del Duomo di Milano, naturalmente in quel caso è facile sapere che quello è un duomo, siamo in una città magari sconosciuta. A Firenze, in centro, vicino proprio in Piazza della Signoria, a chiedere per lavoro cos'era un monumento. E delle persone specializzate che erano lì intorno mi hanno detto non lo so, guardi, provi a chiedere a quest'altra persona. Quindi Duomo sembra appariscente, ma in verità ovunque noi siamo, attorno a noi, c'è una realtà che non ci parla. Sì. Voi avete realizzato assieme al CNR, assieme ad altre organizzazioni, ad altre aziende, un'applicazione per smartphone. Quindi parliamo di una cosa apparentemente semplice che in realtà utilizza tante tecnologie e le mette assieme. Si chiama Visito Tuscany, poi spiegheremo anche come si può utilizzare, dove si può utilizzare. Che cosa fa questa applicazione? La cosa più naturale che dovrebbero fare le applicazioni, ovvero sia essere più vicino all'utente. L'utente non deve domandarsi, cercare, mettere parole chiave, cercare dove sono, chiederlo, no. Abbiamo un telefonino che è modernissimo, questo telefonino ha un sacco di componenti, scattiamo la foto ad un monumento, immediatamente ci viene detto cos'è quel monumento, ci vengono date le informazioni correlate, magari ci verrà detto in un futuro, qui vicino c'è il ristorante, già magari se lo si fa, qui una curiosità raccontata dai blog, e immediatamente magari anche le informazioni di altri che sono lì vicino, si interagisce tutti insieme. Quindi diventa il telefonino o quant'altro, l'iPad o altri dispositivi, diventano delle tecnologie che noi portiamo con sé e che ci mettono in comunicazione immediata con tutto quello che la realtà intorno non ci darebbe. Immagini storiche, per esempio, scatto la foto del Duomo e scopro che nel 1800 la facciata del Duomo di Firenze era diversa. Sì. Vi ricordo che potete intervenire durante la nostra trasmissione al nostro numero verde che molti di voi conoscono, 800 24 0024. Potete anche inviarci SMS che leggeremo al 349 238 6666, oppure potete andare sulla nostra pagina Facebook che trovate molto facilmente digitando 2024, fare naturalmente i like, ma anche utilizzarla per mandare le vostre considerazioni, le vostre domande. Sam, questa applicazione mette assieme un po' di cose. Allora, sfrutta il GPS dello smartphone, perché lo smartphone sa che noi ci troviamo in una piazza particolare. Ci sono delle mappe a bordo, ma sfrutta anche, perché tu ci hai detto che scattando una foto ci viene restituita un'informazione, sfrutta anche il riconoscimento dell'immagine. Esatto. Che cosa vuol dire? Come funziona? Perché non è una cosa semplice riconoscere l'immagine del Duomo di Milano, forse sì, ma di un palazzo magari particolare. Non solo il Duomo di Milano, ma un suo dettaglio, una sua statua. Sì. Oppure distinguere tra una torre e una parte, diciamo, di un palazzo. Il riconoscimento visuale, in poche parole, è prendere un'immagine di qualcosa e trovare una molto simile ad essa, e l'evoluzione massima è dire è esattamente quello lo stesso oggetto. Io fotografo te, automaticamente mi riconosce, questo è Enrico Pagliarini, e mi dà tutta la scheda descrittiva di questo, del soggetto che io fotografo. La complessità è notevole, perché un conto è fotografare una fotografia che già la tecnologia permette, a pochi soggetti possono farlo. Un conto è fotografare una statua che di giorno, di mattina, ha un colore molto più brillante, più sul blu, e la sera è più sul giallo arancione, perché la sera è un po' cambiano le luci, sì, cambiano le ombre. Quindi fare una foto, scattare la foto va al nostro sistema, viene confrontato con tutte le immagini che abbiamo, e riproporre indietro la scheda proprio di quel soggetto, questo è un unicum. Che nel vostro caso sfrutta una tecnologia che è stata sviluppata dal CNR. Esattamente. Senti, questo Visito Tuscany lo si può già utilizzare? È gratuito sia per Android che per iPhone, quindi uno può andare sui market di questi due, prevalentemente il mercato è coperto, diciamo, da questi due soggetti, e scaricarlo gratuitamente e utilizzarlo. Ovviamente noi, essendo un progetto di ricerca, lo abbiamo creato, il primo prototipo, per Firenze, San Gimignano e Pisa, che sono delle realtà, diciamo, di dimensioni di città, che sono una grande città, una media città e una piccola città, perché lo scopo che abbiamo nel nostro progetto è quello di proporci non solo per le grandi realtà monumentali, ma arrivare raffinando anche ai piccoli comuni che vogliono essere collegati. Quindi Visito Tuscany aspirerebbe, nel suo ideale, diciamo, futuro, a coprire l'Italia e rappresentarla nelle sue piccoli dettagli, perché poi ovunque siamo e c'è un dettaglio da rappresentare. Questa di fatto è una piattaforma che va riempita di contenuti. Esatto. Che tipo di contenuti? Fotografie, parti di guida turistica, che cosa? Allora, in questo momento tutto, in realtà, perché da un lato fotografie moderne di adesso, perché la storia di adesso viene raccontata prevalentemente dagli utenti. Sì. Gli utenti stessi, perché anche gli utenti sono una parte indispensabile perché il sistema esista. Dopodiché dei contenuti storici, se io fotografo il Duomo vorrei vedere com'era 10, 20, 30, andare indietro nel tempo finché posso, no? E vederlo nelle sue evoluzioni. Testi di qualità, non un testo che dice in poche parole questo è il Duomo, grazie, magari vorrei sapere delle curiosità, delle informazioni di cultura sempre più approfondite in base al mio profilo, perché io ho una personalità che si rivolge a uno studio di un certo tipo, eccetera. Quindi non solo Wikipedia, tu dici. Esattamente. Andiamo un po' oltre. Esiste un modello di business per questo tipo di applicazione? Noi abbiamo fatto il progetto Visito Tuscany, è terminato a dicembre dello scorso anno, e in questo momento siamo in quella fase di industrializzazione, dello studio di industrializzazione di quello che vorremmo fare di questo progetto. C'è una forte domanda. Noi ieri abbiamo avuto un incontro con il comune, per esempio, di Pietrasanta, un piccolo comune toscano, che dice noi siamo interessati a queste tecnologie. Abbiamo avuto incontri col comune di Lucca, Firenze, quindi ci sono dei comuni che fanno la domanda, quindi la domanda c'è da un punto di vista di pubbliche amministrazioni del territorio, per questo è un ottimo strumento per il marketing territoriale. Una volta che io rappresento bene il territorio, lo rappresento tutto, il turista che arriva in Italia sa che questa applicazione rappresenta tutte le sue esigenze, a cui poi si possono dare informazioni anche alberghieri, ristoranti, che in questo momento non è lo scopo del progetto. Sì, infatti in questo caso, come in altri casi, vale la fantasia, cioè a bordo di questa piattaforma si possono mettere tante cose. Tu dicevi marketing territoriale, magari esiste la guida di una città, potremmo inserire il sistema di bigliettazione del museo all'interno di questa piattaforma. Quindi esatto. Io arrivo magari davanti al museo, grazie a questa applicazione che mi dice, mi racconta delle cose del museo e posso anche fare acquista e biglietto. Sì. Noi abbiamo fatto un passo in più, noi abbiamo detto facciamo un pezzo di tecnologia, abbiamo detto facciamo qualcosa che poi possa essere usato in un modo molto più ampio, ovvero sia, cosa fa, prima ci siamo domandati, cosa fa il turista, prima di dire cosa vogliamo vendergli, cosa fa il turista? Prima di andare in un posto, cerca di capire dove sta andando, se non c'è mai stato, se già c'è già stato magari lo vuole pianificare, vedere delle mappe eccetera. Sì, fa la classica cosa che molti utenti di internet fanno pronto su internet, esatto. Guardano le mappe, guardano le fotografie eccetera eccetera. Ma vorrebbe già farsi degli itinerari magari. Sì. Allora il nostro modello è prima gli permettiamo di o di prendersi magari degli itinerari che abbiamo costruito noi, di pianificare, vedere come su delle mappe questo itinerario si forma, poter prendere un nostro itinerario, nostro vuol dire creato istituzionalmente, e modificarlo sul proprio quello che vuole lui. Io ho 5 minuti, non mi sto a guardare tutto quanto, e metterlo sul proprio profilo. Finito lì, può aggiungere tanti commenti, vedere i commenti degli altri, cioè tutto il lato social. Dopodiché, quando l'utente arriva sul luogo, non c'ha il computer in genere con sé, c'ha il telefonino. Lì sul telefonino ci trova tutti i propri percorsi e quelli istituzionali. Quindi si trova tutte le informazioni che gli permettono di fruire al meglio di quello che lui si aspettava e verificarlo. Supponiamo, io sono davanti a un monumento che non mi aspettavo, lo fotografo, vedo cos'è, mi dice cos'è, lo posso condividere, quindi informo i miei amici che quel luogo è di interesse per me, soggetto turistico, e lo potrebbe essere per loro. Sì. Posso dire che è una moderna guida turistica che mette assieme tante cose che oggi esistono sul mercato, perché l'ultima che tu ci hai citato, cioè la condivisione del luogo, è un'attività che noi possiamo fare con altre applicazioni. Poi integrate tante cose che già esistono sul mercato. Poi ti chiederò tra poco, adesso abbiamo la viabilità, se sul mercato esiste qualche cosa del genere e che cosa esiste. Riprendiamo, siamo in diretta dalla Borsa Internazionale del Turismo, siamo a Milano, alla Fiera di Milano, alla grande Fiera di Milano, che è veramente immensa, ci vuole non so quanti minuti per passare da una parte all'altra. Qui si incontrano gli operatori turistici, ma ci sono anche molti oltre che curiosi, anche molte persone interessate alle proprie vacanze, qui trovano molte, molte cose. Stiamo parlando di tecnologia e di turismo, di turista digitale, di tecnologia a supporto del turismo e del turista. Vi ricordo il nostro numero verde per chiamarci, per parlare con noi, anche per raccontarci la vostra idea, la vostra esperienza, 800 24 00 24, oppure potete anche andare sulla nostra pagina Facebook, ci sono già un paio di ascoltatori che ci hanno scritto qualche cosa, 2024, per condividere le vostre idee. Con Sam Minelli, che fa parte della nostra famiglia, perché Alinari è, diciamolo, che cos'è Alinari? Alinari ha forse l'archivio più grande in Italia di fotografie. Alinari è l'archivio storico più antico del mondo, è la prima industria fotografica e è da 160 anni che è viva. Questo è che fa fotografie, raccoglie fotografie, è diciamo l'eredità storica culturale. Noi stiamo parlando di Visito Tuscany, questa piattaforma che è stata realizzata grazie ad un progetto finanziato dalla regione toscana. Poi diremo anche una cosa su questo progetto e sulle regioni in generale. Quante foto avete fatto per questa applicazione? Per questa applicazione, per riconoscere un numero limitato di soggetti, che è intorno ai 200 soggetti in questo momento, fase prototipale, 40.000 fotografie. Nuove. Più tutte quelle che avete nell'archivio. Quelle che abbiamo nell'archivio, la Linari possiede 5.500.000 fotografie, di cui una piccolissima parte digitalizzata, quindi è una miniera, un tesoro incredibile da un punto di vista visuale, storico, culturale. Senti, ti chiedevo, a proposito di realtà aumentata, che cosa esiste sul mercato oggi che possa essere paragonato? Certo. O forse che, diciamo, che sia un esempio anche per gli ascoltatori per provare la realtà aumentata. Dunque, io personalmente considero le applicazioni per il turismo, quindi parliamo per applicazioni tecnologiche per il turismo, sì. E poi qui estendiamo, portiamo alle loro evoluzioni. Io le vedo divise per tipologia, in una prima istanza evolutiva, in applicazioni che sono in grado di darti delle informazioni. Quindi ti raccontano la storia di un elemento storico o di un oggetto culturale, dandoti magari anche informazioni che possono essere gli alberghi. L'evoluzione successiva è quando iniziano a utilizzare i sensori del dispositivo, quindi il GPS, la bussola, perché sui nostri telefonini oramai su le evoluzioni permettono di avere delle informazioni aggiuntive, coordinate della persona, dove è in quel momento e dove è orientato, però approssimativamente questo ha degli errori. e queste applicazioni, diciamo, del secondo tipo permettono di dare delle cose molto belline. Per esempio, io sono in una piazza, mi muovo con il telefonino davanti a me, mi mostra la realtà che sta di là e mi mostra, guarda, a 200 metri troverai un ristorante, a 300 metri sulla sinistra troverai, quindi ti fa vedere sul tuo spazio quello che potresti avere lì intorno, ovviamente magari limitatamente. Ci dai due o tre nomi? Certo. Allora, quelli che sono più noti nel mercato sono, c'è Liar, c'è Toscani Plus, perché anche la Toscana su questo territorio è molto avanti. Crossair, Augmented Reality Browser, anche visto Toscana abbiamo fatto delle prove su questo. Diciamo uguali. Che se uno prova Liar capisce già molte cose della realtà aumentata. Sì. Perché? E questa è una cosa che, diciamo, gli esperti di tecnologia conoscono da parecchio tempo, però mi sembra che siano applicazioni ancora poco utilizzate. E poi voi capite bene che tutte queste applicazioni, come quella che tu ci hai raccontato e illustrato, possono poi essere connesse con tante altre cose. Tu dicevi il marketing del territorio, l'e-commerce locale, territoriale, perché se poi assieme alla vostra applicazione io ci vado ad infilare tutta una serie di proposte di ristoranti, di alberghi, di magari l'albergo me lo sono prenotato prima, però ad esempio il ristorante magari me lo cerco la mattina mentre sono in piazza a visitare la città per la sera. Quindi sì, io anzi dirò di più, noi abbiamo messo anche dentro un gioco che non è previsto dal progetto, un gioco di caccia al tesoro, in cui il tesoro è un oggetto visuale. Ci sono nei nostri monumenti un sacco di elementi, di dettagli. La storia di questi elementi può essere messa insieme attorno a un tema, il Conte Ugolino a Pisa, in cui uno dalla casa natale, che non esiste più, del Conte Ugolino, si porta il turista a manina fino al cimitero monumentale, raccontandogli tutta la storia, e lui deve ritrovare dentro i monumenti i pezzi in formato di enigma. Trovami qui, c'è un volto che è quello del Giove, lo sai trovare, scatto la foto, riconosce bene, passi all'indizio successivo. Quindi anche si può creare questo, dove volevo arrivare questo, che ci sono delle realtà, per esempio a Pisa l'Associazione Amici del Gioco del Ponte, che è una realtà locale che emerge grazie a queste applicazioni. Quindi può essere e-commerce, può essere un albergo, ma può essere anche la piccola cultura che non emergerebbe altrimenti. Senti, quanto è costata la fase prototipale di questo progetto? Qui fammi essere preciso perché non vuoi che poi qualcuno ti tiri le orecchie. Allora, il costo del progetto è di circa 3,8 milioni, finanziato 2,5 milioni. E gli altri soldi chi li ha messi? Le aziende che hanno partecipato, o il soggetto di ricerca che ha partecipato. Senti, tutto ciò come si sostiene? Cioè, voi immaginate che questa possa essere un'applicazione gratuita come ne esistono altre, ma non è detto che poi tutte queste che noi oggi utilizziamo esisteranno nel futuro, perché alcuni modelli di business devono ancora essere trovati e alcuni di questi falliranno, ma questo vale in generale per internet, per la tecnologia. Voi vi immaginate che tipo di modello di business? Cioè una cosa pagata dalle pubbliche amministrazioni, dai musei, dalle città, da sponsor, che si sostiene da solo perché magari ci infilate sopra anche la possibilità di prenotare ristoranti, musei, eccetera, eccetera? Allora, noi abbiamo già da un anno esplorato tantissime possibilità, andare a rivolgersi a delle associazioni commerciali, gli albergatori, l'artigianato non ha mezzi molto forti, avere degli investitori che potevano essere soggetti bancari, magari questo non è il momento, sì. Avere dei soggetti anche la pubblica amministrazione, in questo momento anche per la pubblica amministrazione non è proprio il momento, per nulla non è il momento. Quindi in verità quello che stiamo facendo stiamo, nonostante il progetto sia finito, stiamo continuando a lavorare per non spengere le macchine e in tutti i modi cercare di comunque portare anche, per esempio, alcune cose fatte fuori dal progetto apposta perché venisse attratto soggetto interessante, per esempio l'Associazione Amici del Gioco del Ponte a Pisa, per esempio stiamo cercando di farlo per altre realtà. Tutto questo perché stiamo cercando di costruire un business model che verrà da qui a qualche mese, perché non è una cosa banale dire tenere insieme tutte dopo un progetto cose, sì. un consorzio che è eterogeneo, c'è un grosso soggetto di ricerca che è il CNR, c'è un'impresa che è una grande impresa, l'Enel 24 ore, fa parte del gruppo 24 ore, e poi ci sono due piccole imprese locali che sono Trilogica e Perborea, che sono comunque, questo è un consorzio che va tenuto insieme. Abbiamo un minuto, cose del genere nel mondo ne esistono? Allora, c'è un competitor che è Google, ovviamente noi l'idea è nata nel 2008 e nel 2009 è stata vinta, quindi noi possiamo dire siamo i primi che abbiamo fatto questo oggetto. Sì. Nel 2010 Google ha messo fuori Goggles, che è un applicativo di Google che permette di riconoscere, fotografandola, un oggetto, un quadro, un'opera, ma ributta su Google. Cioè è come se io avessi fatto una ricerca testuale. Chiaro, cioè è molto meno evoluta. La tecnologia di sotto non la analizzerei, produce meno contenuto di alta qualità, sì, perché ti produce quello che lui, sì, trova che vuole mostrarti. Un'ultima cosa nell'ultimo minuto riguarda le regioni. Visto che questo è un progetto finanziato con soldi pubblici, sarebbe il caso che altre regioni che non hanno finora dimostrato, insomma, granché nel mondo del turismo, spegnessero qualsiasi idea di progetto del genere e utilizzassero quello che è già stato fatto dalla regione toscana. È inutile che si facciano i doppioni, ne abbiamo già visti troppi. Insomma, il messaggio mi sembra chiaro. Sam, io ti ringrazio per essere stato con noi. Magari rimani nel nostro studio, si sa mai che qualche ascoltatore abbia una domanda per te nella seconda parte. Approfitto per ricordare che potete contattarci digitando sul vostro telefono il nostro numero verde 800 24 0024 per parlare di turismo e internet, di turismo digitale. Lo faremo anche nella seconda parte, oppure potete inviare un SMS al 349 238 6666 o anche un messaggio nella nostra pagina Facebook. Questa è la seconda parte di 2024, siamo in diretta dalla BIT, alla Fiera di Milano, la Borsa Internazionale del Turismo, una giornata piena di gente che visita questi padiglioni. Noi siamo nell'area delle regioni, quindi le regioni che si espongono e si raccontano. In questa seconda parte parleremo di tecnologia e di turismo, come abbiamo fatto del resto nella prima parte, ma cercheremo di focalizzarci più sul web, che poi web diventa sempre più mobile. A proposito di mobile, nella prima parte abbiamo parlato di realtà aumentata, abbiamo raccontato un'applicazione che è ancora in fase sperimentale ma è molto innovativa, ma comunque potete utilizzarla già da questo momento perché esiste già sui due principali store di applicazioni, quindi andando sia sull'App Store dell'Apple con l'iPhone o con l'iPad oppure sull'Android Market per tutto il mondo Android, potete scaricare gratuitamente Visito Tuscany. Visito è scritto Visito, Tuscany è scritto Tuscany con la Y finale, visto che alcuni ascoltatori ce lo chiedono. Non fa tutte le cose che abbiamo raccontato, perché Sam, alcuni ci chiedono ma si possono effettivamente per visitare i musei, prenotare i ristoranti? Non ancora, insomma abbiamo fatto degli esempi di cose che si possono fare giusto per raccontare le possibilità della tecnologia. Io sono Enrico Pagliarini, con me c'è Pietro Lacorte che si occupa della parte tecnica. E come vi ho anticipato poco fa, Roberto Gentile, che è un esperto di turismo, bentornato Roberto. Grazie, e agli ascoltatori che sono con noi. Tu da molti anni ti occupi di turismo, noi ci siamo già sentiti parecchie volte per parlare di turismo in varie forme. A tuo parere, che cosa è cambiato di più negli ultimi anni? Perché noi già da tanto tempo possiamo prenotare biglietti via internet, del treno, dell'aereo. Beh, pensiamo ad esempio alle low cost, non esisterebbero se non ci fosse internet. Molte cose, insomma, facciamo, prenotiamo alberghi, ci sono piattaforme di cui discutiamo. Possiamo dire che la parte social è forse una delle novità più interessanti degli ultimi anni? Assolutamente sì, e lo è grazie agli smartphone, nel senso che è proprio la possibilità di disporre di internet 24 ore su 24 in qualunque luogo che ha cambiato l'approccio con quello che era la necessità di avere un computer, un collegamento e magari anche una scrivania. Quindi la novità è, primo, tutto il prodotto turistico del mondo a portata di sito, di web, qualunque cosa mi permetta di accedere a una piattaforma, non necessariamente ormai web, perché Facebook a tutti gli effetti è diventato un'ulteriore piattaforma di consumo del mercato turistico, e tutto questo lo posso fare dovunque e comunque. È un punto che è rivoluzionario, ma il collega di prima lo ha evidenziato e siamo ancora agli albori, è la geolocalizzazione. Quando andremo a Firenze, a Melbourne, a New York e semplicemente facendo un check-in nel museo, nel ristorante, nella discoteca avremo uno sconto, avremo un vantaggio immediato, lì veramente è la commistione definitiva e devastante per la concorrenza tra quello che posso trovare e quello che mi viene dato subito quando lo voglio. Senti, per chi utilizza internet, per chi utilizza gli smartphone, molte di queste cose, e faccio riferimento alle cose di base, cioè comprare biglietti via internet eccetera eccetera, sembrano una cosa scontata, però io mi sono stampato, non dovrei stampare, no, in un programma di tecnologia non dovrei stampare, però siamo in fiera all'esterno, insomma, per sicurezza. Poveri alberi. Sì, mi sono stampato un po' di dati sul commercio elettronico. sono circa 10 milioni gli italiani che fanno acquisti online. Corretto. Buona parte di questi acquistano anche biglietti, eccetera, eccetera. Circa il 50%. Prenotano alberghi, eccetera. Stiamo purtroppo parlando di una minoranza, nonostante siano anni che parliamo di questo. Tua zia prenota online? No. Peccato, perché ne avrebbe sicuramente dei vantaggi, neanche mia zia, neanche la zia dei presenti in questo momento. Il problema è generazionale, il digital divide del quale parli tu da anni nella tua trasmissione. Finché non tutti andranno online, non tutti compreranno biglietti e voli e vacanze online. E a proposito di cose che ancora in pochi conoscono, io ho invitato oggi Isabella Convertini, che è country manager per l'Italia di Kayak. Benvenuta. Grazie, buonasera a tutti. Che cos'è Kayak? O Kayak, dipende da come si pronuncia. Kayak, va benissimo. È un metamotore, che è una parolaccia. Che è un motore di ricerca. È un motore di ricerca. Quello che fa, facciamo un esempio, ho bisogno di andare a Parigi questa sera, ieri sono andata su Kayak, ho messo la mia ricerca da Milano a Parigi, partenza oggi. Kayak ripete questa ricerca su centinaia di altri siti di viaggio e mi ridà i risultati in un formato che mi permette di confrontarli nella maniera più semplice possibile e quindi di fare la mia scelta tra tante opzioni di viaggio. Fa ricerca su tanti altri siti, mm-hmm. Che cosa significa? Cioè che va sui siti delle agenzie di viaggio, delle compagnie aeree, esatto. Eccetera, eccetera. Esatto, ripete, fa quello che io farei come utente se voglio confrontare la stessa offerta su diversi siti, sulle compagnie aeree, sulle agenzie di viaggio online e così via. E se sto parlando degli hotel è lo stesso discorso. Le ricerche che voi fate, le fate spontaneamente, nel senso che voi effettivamente andate a cercare su tutto il panorama internet o perché esistono degli accordi tra di voi e i siti su cui fate le ricerche? Diciamo che da un certo punto di vista, con alcuni siti abbiamo sicuramente degli accordi, soprattutto con le agenzie di viaggio online, su con le compagnie aeree anche, e ci sono poi ovviamente anche delle tecnologie come i GDS, tra cui Amadeus, che ci permettono di comunque confrontare i dati senza necessariamente avere degli accordi, quindi per essere sicuri di avere tutto il panorama dell'offerta a disposizione. Allora, tu hai citato una cosa che io ignoro, non so che cosa sia un IGDS, allora visto che hai citato anche Amadeus, Tommaso Vincenzetti è direttore marketing di Amadeus, benvenuto. Grazie, buon pomeriggio. Che cosa sono i GDS? GDS è un acronimo che sta per Global Distribution System e sono delle grosse strutture internazionali, nella fattispecie ce ne sono tre al mondo, che distribuiscono ormai da circa un ventennio in maniera automatizzata le informazioni relative alle compagnie aeree. Noi gestiamo mal contate 450 con un enorme centro di calcolo che sta in mezzo alla Baviera in Germania e si chiama Erding, che è il primo centro di calcolo civilistico e il secondo centro di calcolo al mondo dopo il Pentagono. Quindi distribuiamo informazioni aeree che sono informazioni molto più complesse da gestire di quanto normalmente si possa pensare. Cioè potremmo fare addirittura una trasmissione solo sul centro di calcolo di Amadeus. Ma di recente sono state fatte diverse interviste, abbiamo mandato anche dei fotografi italiani, giornalisti italiani in quella sede, perché è davvero affascinante, una specie davvero di pentagono, è fatto tra l'altro in quel modo dal punto di vista architettonico, circondato da cani e da guardie armate, e se si dovesse malogoratamente bloccare il centro di Erding, diciamo che circa il 70% dei viaggiatori nel mondo perderebbero le loro prenotazioni e il loro record a riguardo. Voi servite le compagnie, diciamo gli agenti di turismo, le agenzie di viaggio oppure Kayak, piattaforme come Kayak o anche me utente finale? Tutti quanti, tutti coloro che abbiano bisogno di avere quel genere di informazioni, quindi l'intera filiera del turismo, gli hotel sicuramente, ma certamente anche le agenzie di viaggio, passando anche per le agenzie di viaggio online, quindi le OLTA propriamente dette. Sì. Senti, prima dicevamo con Roberto Gentile che stiamo parlando di tecnologie di turismo, ma purtroppo stiamo parlando di un settore ancora piccolo se lo raffrontiamo al grande mercato del turismo, sei d'accordo? Sì, sono d'accordo, ma va anche sottolineato che il tasso di crescita in paesi anche non particolarmente sviluppati come il nostro è enorme, la metà dell'e-commerce italiano, il 49%, facendo riferimento ai dati dello scorso di novembre del Politecnico di Milano, dicono che il 49% dell'intero indotto, che pari a circa 8 miliardi dell'online, dell'e-commerce online, passa per il turismo, quindi sì, è vero, i numeri non sono enormi, ma sono davvero in crescita esponenziale. Riprende 2024 in diretta dalla Fiera di Milano, BIT, Borsa Internazionale del Turismo. Siamo la radio ufficiale di questa manifestazione, sempre piena di cose interessanti. Beh, insomma, del resto stiamo parlando di turismo. Dicevamo con Tommaso Vincenzetti che stiamo ancora parlando di una fetta molto piccola se guardiamo al turismo in generale. Dal vostro punto di vista, che cosa è cambiato negli ultimi tempi? Insomma, se parliamo di biglietti via internet, quello ormai lo diamo per scontato, non stiamo nemmeno a parlare di quella come un'evoluzione, però invece ci sono tante cose interessanti. Prima dicevamo del social commerce o della dimensione sociale del mondo del turismo. Dal vostro punto di vista, che cosa è cambiato di più e che cosa è interessante da osservare negli ultimi tempi? Noi facciamo comunemente tante ricerche e approfondimenti in merito a quello che potrà succedere nel futuro nel mondo dei viaggi e cosa è successo nel recente passato. Quello che si potrebbe dire da un punto di vista storico / sociologico è che ci sono state tre grosse ere del mondo dei viaggi. La prima era è stata quella in cui si è iniziato effettivamente a viaggiare ed era un'era paradossalmente molto glamour e molto chic, dove erano pochi signori che si potevano permettere di prendere una nave da crociera o un aereo. Dopodiché la cosa si è molto allargata ed è diventato tutto più semplice e più economico ed è l'era in cui attualmente noi viviamo, quindi l'era del turismo diciamo occidentale esteso. Vi è una terza era che è quella futura, dove noi crediamo che il turismo, il viaggio non sarà solo più visitare un luogo, ma sarà paradossalmente rivisitarlo, quindi non sarà una questione di quanti paesi visito, ma quanto approfonditamente questi paesi vengono visitati. E quindi in questo senso la tecnologia, certamente i social network, certamente il mobile, certamente quindi il social commerce e l'e-commerce saranno due componenti straordinarie, perché permetteranno di andare a fondo verticalmente nell'esperienza del viaggio attraverso mille strumenti che sono attualmente a disposizione. Dal punto di vista tecnologico tutto questo già esiste, quello che non esiste è l'interfaccia, se vogliamo, con dei valori sociali più estesi, con dei modelli di business sostenibili e anche con delle infrastrutture che permettano a quello che la tecnologia oggi può fare di effettivamente permeare la realtà di ciascuno di noi, e questo secondo il nostro punto di vista è il modo in cui va interpretato il futuro. Cioè la tecnologia c'è, quello che la tecnologia deve fare è incunearsi in qualche modo all'interno di un tessuto ampio e diventare effettivamente realtà, altrimenti si rischia di essere tecnocentrici senza considerare le componenti che sottendono la nostra vita comune. Roberto, cioè tutto ciò dovrebbe diventare più semplice, perché adesso effettivamente alcune di queste cose sono o complicate o comunque richiedono moltissimo tempo, perché la dimensione social ha creato talmente tante informazioni che io posso effettivamente beneficiare di tutte le informazioni che ci sono su internet, però perdo effettivamente un sacco di tempo e non sempre sono sicuro di trovare un'informazione di qualità. Assolutamente, ma il valore social è quello di dare affidabilità non a una stringa di programma di Google, di un motore di ricerca, ma alla tua comunità. Quindi se io frequento una comunità di tennisti e decido che voglio andare in vacanza alle Canarie, magari per giocare a tennis ma anche per visitare le Canarie, mi fido di più di quello che mi dicono all'interno della mia comunità, del mio gruppo, piuttosto che cercando tennis, sport, spiagge alle Canarie. Quindi il social avalla delle informazioni che io estraggo dalla rete ma che già circoscrivono a un certo ambito. Secondo passaggio, ma tu sai, ne hai parlato in trasmissione, dei motori di ricerca lo stanno affrontando, è semplificare la ricerca con delle domande, nel senso io devo poter chiedere nella mia stringa di Google o di chiunque dove posso andare da domani a venerdì con 350 euro, non devo volare più di 2 ore, devo scriverlo così, sì, e deve uscirmi la risposta non con 8 milioni di risultati, ne voglio 10, ma devono corrispondere esattamente a questa domanda, sì, dove voglio andare in 3 giorni con quella cifra, non mi far perdere tempo. Ecco, però torno sul punto che sottolineavo prima, cioè sulla qualità dell'informazione che si trova online. Il mondo social, cioè la, facciamo un esempio, TripAdvisor, questi siti che raccolgono le recensioni degli utenti, sono nati perché spesso le informazioni ufficiali non sono così approfondite. Cioè c'è proprio anche un problema di cultura degli operatori turistici. Certo. Faccio un esempio banalissimo, le fotografie che io trovo su un sito di un hotel o sui siti che mi vendono alberghi sono di qualità scadente oppure sono false. Photoshoppate, classico, sì, esatto. Lo si fa con le attrici, vuoi che non lo si faccia col cielo di certo, un bel alberghino certo, che è sempre al buio, eccetera, eccetera. È giusto, ma TripAdvisor non è la soluzione, poi non facciamo nomi commerciali, i siti di reference, che sono tantissimi, non sono la soluzione perché sai bene che possono essere in qualche modo artefatti, nel senso che, e c'è stata una sentenza recente nei confronti di TripAdvisor in Francia che ha multato il sito che ha dato enfasi a certe critiche che non erano avvallate dalla realtà. Quindi di nuovo ci troviamo col classico information overload, quindi troppe informazioni filtrate da troppi mezzi, dove poi alla fine trovare quello che cerca è sempre difficile, come dici tu, a maggior ragione che sia vero e che sia, come dire, provato obiettivamente. Quindi a questo problema non abbiamo molte soluzioni ad oggi. Più informazioni, più confusione, più caos. A proposito di, ho citato le fotografie, ma Anita Panizza, che ci aiuta in redazione, ha trovato un sito internet che si chiama oyster.com, che permette di controllare migliaia di fotografie, cioè gli utenti fanno uploadano, mandano su internet le foto vere e le si confronta con le foto originali, quelle degli hotel, e a volte si vedono cose che non sono proprio... Non vale per le persone fisiche? No, direi di no. Speriamo. Direi di no. Abbiamo una domanda che arriva da Verona. Corrado, buongiorno Corrado. Sì, Enrico, buonasera. Niente, io volevo semplicemente segnalare e capire che in particolare sulle prenotazioni dei voli online, no? Molte volte prima si fa un confronto tra varie compagnie o su siti tipo quello citato prima, dove ci sono le comparazioni già in essere, no? Nel frattempo, se uno cambia idea o si distrae un attimo, ci ritorna su, molte volte anche dopo 10 minuti, il prezzo non è più quello, è già cambiato. E allora volevo capire se ci sono giochi nascosti coi cookie per far modo che prima ti attraggono e successivamente ti aumentano. La domanda è ottima, corretta. Allora, immagino che un primo problema sia che magari nel frattempo altri hanno fatto le prenotazioni, quindi ci sia sull'aeroplano meno posto. Però sentiamo prima Isabella e poi Tommaso. Sì, direi che il problema ha due facce. Una, ovviamente, la correttezza dei dati che vengono mostrati, per esempio da motori di ricerca come il nostro, come Kayak. Lì è uno dei nostri obiettivi, è quello di mostrare informazioni che sono il più corrette, il più accurate possibili. Quindi nel momento in cui arrivo sul sito che ho trovato con Kayak, voglio vedere lo stesso prezzo. Questo è un primo problema che noi cerchiamo di affrontare con un controllo continuo e maniacale dei prezzi. Spieghiamo una cosa però, sì. Spieghiamo che io vado sul sito, su Kayak, cerco Milano-New York, mi esce 500 euro, poi nel... presumo 100% dei casi, ma poi mi direi tu, io vengo reindirizzato, esatto, sul sito della compagnia aerea oppure di un'agenzia di viaggio, esatto, che vende quel viaggio. Vedo tutte le compagnie aeree o tutti i siti di viaggio che mi vendono quel particolare volo con i vari prezzi. Quindi quello che voglio, che noi vogliamo, che quando l'utente arriva su quel sito trova esattamente lo stesso prezzo che l'abbiamo mostrato noi. Ok. Il problema che sottolineava il nostro ascoltatore è che forse l'aggiornamento di questi dati non è frequentissimo? Allora, noi possiamo agire fino a questo punto, ovvero garantire che nel momento il prezzo è lo stesso che mostriamo noi e quello che è sul sito. Nel momento in cui arriviamo sul sito ci sono altre dinamiche che hanno a che fare proprio nel modo in cui le compagnie aeree o le agenzie di viaggio gestiscono i voli che hanno a disposizione e anche i prezzi. Ci sono tutti dei sistemi tecnologici di cui io non voglio entrare, non so entrare nei dettagli, che si occupano proprio di cambiamento dinamico. Tommaso, esiste questo problema? Questo problema esiste, ma esiste perché è complessa la gestione dei voli aerei. Come dicevo prima, si pensa che la prenotazione di un volo sia qualcosa di relativamente semplice. Alle spalle c'è tanto una internazionalità estesa, quindi un volo può essere prenotato congiuntamente e contemporaneamente da tutto il mondo. La seconda è appunto la logica della tariffa e la logica degli allotment negli stessi aerei, che cambia continuamente, ma quando dico continuamente vuol dire che cambia ogni singolo minuto, quindi non mi sorprende che tariffe possano mutare anche nell'arco di un breve periodo di tempo, proprio perché sono tantissime le interrogazioni, tantissimi gli acquisti e tantissime anche le interrelazioni tra compagnie aeree e disponibilità. Bene, adesso c'è la pubblicità, forse? Non c'è la pubblicità. Allora vorrevo continuare con Tommaso, perché voi avete fatto una ricerca, ci sono alcuni spunti molto interessanti a proposito di utilizzo spinto della tecnologia. Leggo che voi prevedete, non so entro quanto tempo, entro quanti anni, una gestione migliore dei transiti. Il check-in, ma non vale solo per il mondo delle compagnie aeree, è un momento a volte difficile da gestire anche che crea file, crea disagi, ma questo vale più in generale, insomma, immagino. Vale più in generale perché il concetto di check-in evoluto. Sì, come si diceva prima, le tecnologie in realtà già esistono e queste tecnologie dovrebbero avere nel mondo del turismo e dei viaggi lo scopo primario di diminuire la componente di stress. Componente di stress si vive molto spesso, ad esempio, in aeroporto. Lunghe attese, controlli snervanti, poi dipende da paese a paese. La tecnologia cosa potrebbe fare? Tantissime cose, potrebbe rendere ad esempio il check-in superfluo, quindi si potrebbe tranquillamente evitare di andare al banco a fare il check-in, come tra l'altro già avviene, ma si potrebbe anche evitare di fare il controllo del passaporto, perché ci sono tecnologie già in essere, simili a quelle del riconoscimento facciale attuale, che sarebbero in grado di riconoscere i fingerprints, quindi le impronte digitali a distanza, e quindi associare immediatamente l'impronta digitale alla persona ed evitargli di passare al metal detector. È chiaro che questo in linea teorica già è possibile farlo e già potrebbe essere esteso. Ci sono poi dei problemi di carattere globale, quindi questa pratica, che è una pratica che magari potrebbe essere utilizzata domani in Giappone o negli Stati Uniti, poi dovrebbe diventare un protocollo comune in tutti gli aeroporti, e questo genere di uniformizzazione è piuttosto complesso. Ma non c'è solo il check-in, ci sono anche tutti gli strumenti di pagamento NFC, tanto per citarne uno, che potrebbero di molto agevolare la vita del passeggero una volta che il viaggio inizia. Non è un problema nuovamente di tecnologia, di disponibilità, è più un problema di uniformità della procedura a livello internazionale. Il bello del turismo digitale, del turismo che nasce su internet, è che si possono trovare effettivamente molte informazioni e non so se ancora oggi, ma fino a poco tempo fa anche molte offerte. Volevo chiedere a Roberto Gentile se ancora oggi, visto che il popolo di internet cresce, si trovano ancora delle offerte, cioè il mondo online è effettivamente più conveniente? Certo, se compri il biglietto della low cost va da sé che sia così, ma in generale se cresce il pubblico su internet rimane vera l'affermazione che ho fatto, cioè che su internet si trovano le occasioni? Smentisco subito un'affermazione, cioè il fatto che il volo low cost sia il più economico. Ah certo, assolutamente certo. No, prenota un volo Bergamo-Londra il venerdì pomeriggio per il venerdì sera, ti costa 350 euro più tasse, ma certo. È giusto, perché non hai consumato il tempo precedente prenotando con il debito anticipo. Certo. Oppure se io aggiungo la valigia, compro qualcosa a bordo, certo. Voglio il check-in prioritario, eccetera, eccetera. Però aggiungo un aspetto che non è noto a tutti i nostri ascoltatori, ma qui siamo in una fiera turistica e noi lo sappiamo. Michael O'Leary, l'uomo che ha portato avanti Ryanair negli ultimi 20 anni, ha detto già diversi anni fa che il suo scopo era vendere i biglietti gratis e guadagnare su tutto il resto. Si chiamano ancillary revenues, praticamente rappresentano una quota sempre più alta di reddito delle compagnie. Quindi il mio scopo è convincere la gente ad andare sul mio volo, perché magari gli do anche 10 euro, cioè tu vuoi volare per andare a Budapest, ti pago, però appena metti piedi in aeroporto ti faccio pagare l'aria che respiri, magari non te ne accorgi, mi paghi con la carta di credito online, eccetera, però è lì che è il mio fonte, sì. La mia fonte di guadagno. La risposta alla tua domanda è no, nel senso che il web ha vinto la sfida contro i viaggi analogici grazie alla sua convenienza nei primi anni della rete, parliamo del periodo 99, 2000, 2003, 2004, 2005, ma il modello di business non stava in piedi, quindi per guadagnare online bisogna avere degli economics come offline, cioè bisogna avere dei costi che sono inferiori ai ricavi, e l'unico modo è non vendere sotto costo. Quindi io non posso pensare che se voglio andare alle Maldive posso trovare online a 300 euro e offline a 600 euro, sono due prodotti diversi, perché non posso sostenere il costo industriale di una vacanza alle Maldive alla metà del costo della vendita tradizionale. Quello che l'online ha e l'offline non ha è la comparazione, ed è quello che fa Kayak, cioè l'idea che per quello che io posso spendere, dove posso andare e quali sono le migliori condizioni che possono permettermi di spendere dove voglio andare al meglio, come tempo e come opportunità. Tommaso, vuoi aggiungere qualche cosa? Sì, aggiungo due velocissimi commenti. Il primo che sì, si può comparare, ma se ne accennava poco fa, la comparazione è time consuming, ci vuole un sacco di tempo, e poi per avere informazioni che siano affidabili molto spesso nel momento in cui si organizza un viaggio complesso, quindi si hanno bisogno di informazioni sul luogo e sull'albergo e non solo sul volo, sui ristoranti eccetera, bisogna comparare tre fonti informative differenti. L'una sono i motori di ricerca evidentemente, la seconda sono i peers, quindi i commenti degli amici, il social, tutto ciò che intorno a questo si muove, ma il terzo e forse anche più affidabile punto d'entrata è l'esperto, che può essere il proprio agente di viaggi di fiducia, che può essere un blogger competente in materia, eccetera. Quindi è time consuming proprio perché bisogna aggregare e poi selezionare una montagna gigantesca di informazioni. Questo per quanto riguarda il tempo. Per quanto riguarda invece la effettiva convenienza, sono d'accordo con Roberto, senza dubbio le cose cambiano nel momento in cui tutto questo lo posso fare in mobilità, tutto questo lo posso fare con uno smartphone ad esempio. Allora il costo opportunità della prenotazione nel momento in cui io sono in viaggio, sono a Londra, mi serve una camera d'albergo in più, la posso cercare e prenotare istantaneamente, per quello è un vantaggio competitivo enorme che probabilmente è superiore al costo marginale del servizio pagato. Quindi effettivamente anche come si usa lo strumento, dove lo si usa, il momento in cui se ne ha bisogno, che fa la differenza. Isabella Convertini, a proposito di comparazione, naturalmente la comparazione è, o comunque il risultato finale è più affidabile, maggiore è il numero di soggetti che vengono messi a confronto. Fatto 100 il mercato, quante cose trovo sul vostro sito, cioè su Kayak? Se facciamo riferimento alle compagnie, ad esempio le low cost non ci sono, se non sbaglio. Sì, ci sono. Ci sono? Mm-hmm. Allora a me tutte le volte che cerco i voli però non mi riescono mai. Ci sono. Il nostro obiettivo è quello in tutti i mercati di lavorare con tutti i principali player, quindi tutti i siti principali, compagnie aeree, agenzie di viaggio online in quel mercato. Quando dico principali sono quelle che gli utenti utilizzano di più, di cui si fidano di più, quelle che ci danno la qualità e l'assicurazione di qualità maggiore. Quindi il nostro obiettivo non è di avere il 100%, perché ci sono migliaia e migliaia di siti di viaggio. A me non interessa averne uno in più, così questo mese posso dire ai miei utenti abbiamo 10 siti in più che voi potete comparare. Voglio aggiungere valore per i miei utenti, quindi siamo attenti che la qualità di questi siti sia quella giusta e che quindi effettivamente ho un valore aggiunto. Certamente un utente da solo quanti siti può comparare prima di comprare un volo o di prenotare un hotel? 5, 10, 20, più andare dall'agente di viaggio sotto casa. Un motore di ricerca compara centinaia e centinaia di siti. Sì. Senti, non ti ho chiesto, ed è una cosa importante, come fate i soldi? Cioè come si regge il business? Non siamo una no profit, quindi facciamo sicuramente, dobbiamo fare revenue anche noi. E fondamentalmente i motori di ricerca per i siti di viaggio sono un canale di marketing online. Quindi tutte le cioè modelli di business tipici dell'online, per esempio il modello costo per click, quindi il sito di viaggio per esempio può pagare quando riceve un utente che fa click e arriva sul sito. Se capisco bene, io trovo un'offerta mm-hmm. che ne so sulla Lufthansa, cioè voi mi proponete come volo Milano città XY, mm-hmm. non volo Lufthansa, se io clicco e vado sul sito della Lufthansa, già per aver fatto questa operazione la Lufthansa vi paga. Questo potrebbe essere, è uno dei modelli. Potrebbe essere. Esatto, okay. Questo è un modello con cui funziona l'online marketing. Un altro anche può voi? Essere. Sì, anche per voi. Esempio. Okay, sì. Quindi questo è uno, il costo per click, l'altro è il costo per acquisizione o per operazione o per booking, che dir si voglia, ovvero il sito paga quando l'utente che arriva effettivamente effettua un acquisto. Quindi prenota un aereo, prenota un albergo, un autonoleggio, così via. Poi c'è la pubblicità più tradizionale per il mondo dell'online, che sono i banner per esempio, che ci sono un po' su tutti i siti, sì, e quelli sì. Ovviamente hanno un modello per impressioni, quindi l'azienda che si vuole pubblicizzare paga ogni volta che viene visualizzato il proprio annuncio, quindi è un mix di modelli. Senti Roberto, visto che noi stiamo parlando di tecnologia, dove nel mondo stanno vincendo i player, i protagonisti americani. Ecco, non c'è il rischio che succeda la stessa cosa, magari è già così oggi, ma vorrei sapere se c'è qualche speranza per il futuro, che per prenotare un albergo sulla Riviera Romagnola io debba utilizzare un sistema che sta negli Stati Uniti. È già così, nel senso che non ci possiamo fare niente nel timore di difendere la conoscenza di certi meccanismi. Ci si è concentrati sulle piattaforme più importanti, per questo oggi Venere.com, che era nato in Italia, lo sai benissimo, non è più di Venere.com ma di un altro player molto più grande, perché ha acquisito il know-how specifico in Italia e lo ha portato su una piattaforma che è internazionale. temo, da addetti ai lavori, purtroppo nato in epoca analogica, che sia inevitabile, e quindi saremo purtroppo costretti a dover comunque transitare sempre da piattaforme che risiedono fuori, ma il peggio è che hanno dinamiche diverse dalle nostre, perché se tu vai a Gubbio da italiano, da francese, hai un approccio con la città diversa da quello di un americano, di un cinese. Ma se quel sito, se quella piattaforma, se quella struttura dell'ecosistema è pensata da un ingegnere indiano che ha studiato in America e che lavora a Milton Keynes a Londra, non dà a me italiano, francese, esattamente l'informazione che io mi aspetto con la mia cultura, spiega cosa vuol dire Gubbio, come si pronuncia Gubbio e dove si mangiano i pansotti di Gubbio più famosi. Questo secondo me è il pericolo, la francesizzazione delle nostre città. Sì. L'effetto franchising di Blockbuster e di Starbucks in Italia o in Europa. Sì, infatti io ti ho fatto questa domanda non pensando a l'Italia, cioè non per senso di appartenenza alla nazione, ma per mancanza di capacità di individuare un business, un trend che potevamo... le regioni stanno un po' tutte tentando di fare delle piattaforme di prenotazione. Allora, io sono un grande sostenitore che è meglio lasciare libero il mercato e le regioni dovrebbero astenersi da molte cose. Abbiamo parlato prima con Sam Minelli di un buon esempio, e quindi alcune cose vanno salvaguardate, però bisogna stare molto, molto attenti e usare la prudenza. In questo caso tu ritieni che alcune regioni abbiano fatto delle buone cose? E se è vero, altre regioni che ancora non hanno fatto nulla potrebbero tranquillamente acquisire solo la piattaforma piuttosto che fare l'ennesima piattaforma e spendere altri soldi? A questa seconda parte preferisco non rispondere, cadrei nella trasmissione di Radio 24 dedicata all'economia e altro, sì, quindi però non mi è importante. Naturalmente sì, quello che spendo a Bologna ha un senso anche a Firenze o a Reggio Calabria, e temo purtroppo ad utente che non sia così. Rispondo alla prima domanda: alcune regioni che però hanno molto denaro, molto più denaro dell'Italia, perché sappiamo grazie al titolo quinto della Costituzione che ormai il patrimonio turistico italiano è gestito non da una entità centrale, non c'è più neanche un ministero, ma dalle singole regioni. Alcune regioni hanno fatto un lavoro molto buono e quindi sono riuscite a rendere la loro regione, le loro città, le loro attrattive turistiche molto molto interessanti, utilizzando dei metodi modernissimi, compreso social, eccetera eccetera. Non sono convinto che l'ottica statale o comunque pubblica sia quella ideale, perché il business è governato, come ha detto la collega di Kayak, dalle revenue, e quindi funziona quando qualcuno ci mette dentro del denaro e deve ricavarne un profitto. Sì. Quando in questo caso rientra un assessorato, un governatore, un gruppo che non ha queste logiche, perché è giusto che sia, perché il pubblico non ha una logica di profitto, io da utente comincio a pensare che se quell'hotel è in prima posizione, mi viene il dubbio, ma sono, come dire, colpito dalla corrispondenza del ventennale di Mani Pulite, che ci sia dietro qualche cosa non corretta, ma non è questo l'argomento. Tommaso. Riprendendo quello che ha appena detto Roberto, mi viene da fare un commento, nel senso che è perfettamente così, nel senso che la Costituzione sancisce che siano le regioni a occuparsi della promozione del proprio territorio. Questo può avere un senso però se pensiamo a dei viaggiatori, ad esempio americani, che conoscono bene l'Italia, ci sono già stati magari più volte, che sanno perfettamente che cosa può offrire la Toscana e che cosa può offrire l'Umbria. Questa cosa non ha alcun senso se pensiamo invece a quelli che sono i paesi emergenti. Mi vengono in mente i BRIC, tanto per dire una cosa: questi paesi emergenti non hanno alcuna capacità di discernimento tra la Basilicata, la Puglia e piuttosto che le Marche, non sanno assolutamente di cosa si parla. Quindi dici una piattaforma della Toscana non gli dice nulla. È molto difficile, dovremmo trovare il viaggiatore brasiliano di grandissima cultura e di grandissima capacità di discernimento, cosa che è estremamente rara. Se invece avessimo un brand Italia un pochino più, come dire, aggregato e forte, allora potremmo fare promozione al nostro paese, e questo soprattutto nelle economie emergenti, soprattutto dove il livello di conoscenza non è così approfondito, avrebbe un risultato poi sull'incoming del nostro paese sicuramente di altra natura. Mi sembra quasi, anche in questi giorni in cui ho pensato come strutturare questa trasmissione agli ospiti da invitare, che stiamo parlando di un mondo dove la tecnologia quasi non ha più, come dire, non dico valore, però la tecnologia la diamo quasi per scontata. Bisogna costruire attorno una cultura, dall'albergo che deve capire e comprendere come fare business sull'online. Sono perfettamente d'accordo, perché come si è detto la tecnologia c'è, e c'è anche un grande livello di sofisticazione nella tecnologia. Quello che manca e un utilizzo più intelligente e più allargato della tecnologia stessa, che potrebbe di sicuro facilitare il modo di viaggiare, ma potrebbe anche produrre revenue incrementali, potrebbe sviluppare l'upselling, il cross-selling, rispondere a quelle che sono le domande del viaggiatore quando è in mobilità in maniera molto più spinta e funzionale di quanto non accada adesso. Hai ragione, la tecnologia è data per scontata, lo è, quello che non è scontato affatto è il modo come la viene, come dovrebbe essere utilizzata. In questi giorni molte persone ci hanno contattato, ci hanno scritto, sono passate anche dalla fiera per segnalarci che è nata un'applicazione per promuovere un albergo, per promuovere una regione, un museo, eccetera eccetera. Beh, naturalmente potete capire, non abbiamo la possibilità di fare un elenco grandissimo e lunghissimo per mille ragioni, non ultima quella di tempo, e quindi insomma ci scusiamo con tutte le persone che ci hanno fatto queste segnalazioni. Ed effettivamente uno dei problemi, ma questo vale in internet in generale, è quello di emergere e farsi notare. Però Roberto Gentile voleva sia aggiungere qualche cosa a quello che stavamo dicendo prima, sia anche citare un caso di non so se è successo già, però eccellenza nella sua innovazione, nell'approccio, esatto, nell'approccio. Allora, io temo che il nodo centrale di quanto detto finora sia il digital divide, che è dato purtroppo per me, che non lo chiamiamo cultural divide, esatto, di divario culturale, dall'età, nel senso che chi è nato in epoca analogica, per quanto possa essere tecnologico, fa comunque fatica, perché non è digit, a entrare in epoca digitale. Quindi spesso i veri business nascono da chi li ha pensati a 17, 18, 19 anni. Non facciamo l'esempio, ma citiamolo, perché va in borsa tra poco tempo e diventerà ultramiliardario Mark Zuckerberg. Facebook è stata pensata quando lui aveva meno di 20 anni, giusto? Quindi io posso pensare che gli ostacoli che io e la mia generazione viviamo, di doverci adattare a un mondo che non era nostro, chi in questo contesto è già nato li abbia ben superati. L'esempio è di sfruttare i mezzi, non dovendo capire come funzionano, ma essendoci nato dentro. E in questo modo tu non subisci Google, Expedia o altri meccanismi che ti impongono certe linee, certi paletti. Oddio, vorrei far così, invece faccio cosa. Tu ci sei già nato dentro, quindi non hai bisogno, non sono paletti, tu sei già lì, è un ambiente virtuale, un second life di successo dopo il fallimento di quella vera, che ti dice che tu lì puoi far quello, non cosa avresti potuto fare se fosse andato in modo diverso. Ostello Bello, è scritto proprio in questo modo qua, è un esempio di un ostello di poche camere, nato pochissimo tempo fa a Milano per iniziativa di ragazzi, età media 24-25 anni, che ha avuto una serie di recensioni, di traffico, di click e di popolarità, non business, popolarità talmente eclatante solo perché questi ragazzi non si sono fatti influenzare da quelli che erano i limiti. Hanno semplicemente detto: sono online tutto il giorno, ho il mio profilo su Facebook, lavoro su Twitter costantemente, so cos'è SlideShare e so cos'è Google Plus, faccio tutto, faccio un'insalata e lo ficco sulla rete. Questo è successo. Non ha fatto i miliardi, ma Zuckerberg all'epoca iniziò così. Senti, una cosa del genere può funzionare senza i classici siti di e-commerce per il commercio, cioè Expedia, senza Kayak? Sul social sì, perché tu basta che riesca a gestire, e ripeto, io non lo so fare perché non ho più l'età, sì, purtroppo, basta che tu riesca a gestire la tua comunità e quindi a colloquiare con i tuoi pari, è stato citato prima da Tommaso, e con chi è vicino a te come pensieri, quindi tifa per la tua squadra, guarda il tatuaggio della Belen, va in vacanza a Ibiza a fare windsurf, quella squadra, quella comunità, quel contesto è quello che avalla la tua informazione. Non me ne frega niente di sparare informazioni a un miliardo di persone quando il mio target sono mille. Quelle mille valgono più di qualunque miliardo di persone. Quindi verrebbe da dire, cari albergatori, assumete dei ventenni. Ma me, troppo vecchi. Troppo vecchi. A 14 Tommaso, poi voglio sentire da Isabella come una piattaforma come Kayak sta affrontando anche la dimensione social. A proposito del nostro amico futuro miliardario più di quanto non già sia, quindi Zuckerberg e Facebook, una cosa che è alle porte, che succederà dopo domani, che fa il paio con quello che si diceva del cambiamento tra e-commerce, m-commerce e social commerce, è che su Facebook un agente di viaggio potrà tranquillamente vendere i propri viaggi, ma non che non vuol dire semplicemente farli vedere, cosa che già può accadere tranquillamente, ma che avrà sulla sua pagina personale, laddove lo vorrà, un tool di prenotazione online, che per inciso anche Amadeus sta sviluppando, che permetterà a questo agente di viaggio di muoversi multipiattaforma, o a meglio ancora tripla piattaforma, avrà la sua agenzia, avrà la sua bacheca elettronica sul sito dove potrà fare prenotazioni, ma avrà anche su social un componente di business aggiuntiva che gli permetterà, attraverso i suoi contatti, attraverso il passaparola che si può generare, eccetera eccetera, di vendere, fatturare e generare revenue attraverso i social network. Visto che avete citato i social network, avete citato Facebook, beh, cito una notizia di questa settimana che la KLM, la compagnia aerea olandese, e sappiamo che in Olanda sono molto bravi a utilizzare internet e i social network, ce lo dice anche su Facebook il nostro amico, nonché ascoltatore, nonché esperto di social network, Christian Esser, hanno fatto un'applicazione per scegliersi addirittura il compagno di viaggio in base a i profili che si trovano su Facebook, quindi magari fa un po' marketing, così è la mia sensazione. Beh, sicuramente fa un po' marketing, però sono stati bravi, sono stati molto bravi. Loro hanno fatto anche altre cose con i social network. Isabella, per concludere questa puntata, abbiamo 4 minuti prima di salutarci. Voi come state affrontando questo, non so se chiamarlo problema, comunque questa dinamica che sta cambiando un po' le cose? Non siamo arrivati al punto di fare del social dating con i nostri utenti, quindi questo non è una strada che stiamo affrontando. Quello che è già possibile fare su Kayak, nel momento in cui trovo un volo o un hotel che mi piace, lo posso condividere con i miei amici su Facebook, quindi mandandogli un'email o semplicemente postando un update sulla mia pagina di Facebook o su Twitter e così via. Questo, l'idea del social networking, geolocation eccetera, non lo chiamerei esattamente un problema, è un'opportunità. A mio avviso la sfida per tutti noi che lavoriamo nel settore è quella di trovare il modo per unire mobile, social, geolocation e far sì che per l'utente finale non si chieda cosa c'è dietro e come devo fare per muovermi in questa giungla, ma che possa soltanto godere del contenuto e divertirsi, che è quello che ci diceva prima Tommaso, cioè poter in mezzo alla strada con il mio smartphone fare una prenotazione. Accade già, può già succedere? Sì, assolutamente. Anche con la geolocalizzazione, con la vostra applicazione? Sì, noi abbiamo un'applicazione per smartphone con cui è possibile cercare e prenotare. Dato che noi non gestiamo la prenotazione, perché come abbiamo spiegato prima rimandiamo sul sito dell'agenzia di viaggio, per esempio, il problema adesso che c'è, o comunque l'opportunità, è quello di creare dei siti che siano ottimizzati per i cellulari, perché fino a quando il sito che trovo è una versione miniaturizzata di quello che è online, non sarà mai comodo prenotare e non riusciremo mai a vendere con i telefoni cellulari. Sai chi riesce a vendere con i telefoni cellulari ed era un colosso dell'Ottocento? Trenitalia. Se tu prenoti una tratta Bologna-Firenze mentre sei tra Milano e Bologna, l'applicazione di smartphone di Trenitalia te lo permette. Ti ricordo Ferrovie dello Stato. Sì. Mi permetti di citare, abbiamo intervistato i signori americani, che in realtà poi sono gestiti da italiani, però è sviluppato in California, che hanno fatto l'applicazione Pronto Treno. Pronto Treno, però l'abbiamo già fatto un po' di anni fa, insomma, superato. Bene, io ringrazio i nostri ospiti, Tommaso Vincenzetti, che non ancora country manager. Non ancora, diventa marketing. Il nostro country manager è ammalato. Gli è facciamo ammalato. Gli auguri. La Beat gli ha prodotto la febbre, sì, con ogni probabilità. Grazie anche a Isabella Convertini, che è country manager per Kayak in Italia, anche se domina tutto da Zurich. Esatto, da Zurigo. Buon viaggio, buon ritorno. Grazie mille. E grazie anche a Roberto Gentile, che possiamo definire il nostro esperto di turismo. Ricordaci, grazie. Tu però pubblichi e racconti tutto quello che capita nel mondo del turismo, esatto, attraverso su un sito, naturalmente con applicazioni anche mobile, YouTube eccetera, www.network-news.it. Network News. Bene, grazie anche a Sam Minelli di Alinari 24. Ciao Sam, che è rimasto qui con noi a fianco nel nostro studio. Grazie a Pietro Lacorte, Roberto Scaltritti, a Margherita, a Pier David, eccetera eccetera. Pier David non esiste, forse Gian Gabriel, ad Anita Panizza. Io sono Enrico Pagliarini. Tra poco più di un'ora troverete la versione podcast del nostro programma. Noi ci risentiamo il prossimo sabato, sempre qui per parlare di tecnologia. Tra poco c'è il GR e poi lo sport, sempre in diretta dalla BIT 2024.